Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. È bene che io parli ora dell'altro mio figlio, o meglio del figlio di Lady Lyndon, il visconte Ballyndon, voglio dire. Lo tenni in Irlanda per più di 2 anni sotto la sorveglianza di mia madre, che avevo mandato a stabilirsi a Castle Lyndon. Vi assicuro che fu con straordinario splendore e con incredibile orgoglio che quella povera donna ne prese possesso in pompa magna. Con tutte le sue bizzarrie, fece comunque di Castle Lyndon il possedimento meglio amministrato che avessimo. Gli affitti venivano pagati scrupolosamente e le spese per raccoglierli erano minori di quanto non sarebbero state sotto qualsiasi intendente. Era stupefacente quanto poco spendesse la buona vedova, mia madre, pur dovendo tenere alto l'onore delle due famiglie, come lei diceva. Aveva una schiera di domestici al servizio del giovane lord. Non usciva mai di casa senza il suo vecchio tiro a 6 dorato. Il castello era tenuto pulito e ordinatissimo. La mobilia e i giardini in ottimo stato. E nelle nostre occasionali visite in Irlanda non visitavamo mai una casa che fosse in condizioni migliori della nostra. In giro per il castello c'erano una 20 di servette sempre a disposizione e una 10 di domestici ben vestiti. E ogni cosa era tenuta in condizioni perfette, come non avrebbe potuto fare la migliore governante. Tutto questo riusciva ad ottenerlo senza presentarci quasi mai un conto, perché faceva pascolare nelle sue tenute pecore e bestiame e poi ne ricavava un bel profitto. Riforniva di burro e pancetta non so quante cittadine e al mercato di Dublino la frutta e la verdura dei giardini di Castle Lyndon andavano in vendita ai prezzi più alti. Non permetteva sprechi nelle cucine, in tempi in cui questo sciupio era pratica comune nella maggior parte delle case da noi in Irlanda. Non si consumavano i vini delle cantine, perché la vecchia signora beveva solo acqua e non riceveva quasi mai nessuno. La sua vita mondana si riduceva alle visite di 2 figlie della mia vecchia fiamma Nora Brady, ora Mrs. Quinn. Lei e suo marito avevano sperperato quasi tutto il loro patrimonio. E una volta Nora venne a trovarmi a Londra. La trovai molto invecchiata, grassa e trascurata, con 2 bambini sporchi stretti ai suoi fianchi. Pianse a catinelle nel vedermi. Mi chiamò signore, Mr. Lyndon, cosa che non mi dispiacque, e mi implorò di dare una mano a suo marito. E io lo feci, trovandogli, mediante il mio amico Lord Crabs, un posto in Irlanda all'ufficio dei dazi di consumo e pagando a lui e alla sua famiglia il viaggio per mare. Lo trovai trasformato in un ubriacone sporco, cupo e piagnucoloso, e quando guardavo la povera Nora non potevo fare a meno di ripensare con stupore ai giorni in cui l'avevo creduta una divinità. Ma quando rivolgo le mie attenzioni a una donna, rimango poi sempre suo fedele amico. Potrei citare 1000 esempi di questa mia indole generosa e costante. Il giovane Ballyndon era quasi l'unica persona del suo entourage che mia madre non riuscisse a tenere sotto controllo. Le notizie che mi mandava sul suo conto furono fin dall'inizio tali da ferire profondamente il mio cuore di padre. Rifiutava ogni regola, ogni autorità. Si assentava da casa per settimane per andare a caccia o per altre scorribande. Quando invece stava a casa era silenzioso e si comportava in modo strano. Rifiutava di fare la partita di picchetto con mia madre di sera, sprofondandosi invece in ogni sorta di vecchi libri ammuffiti che gli scombussolavano il cervello. Si trovava più a suo agio a ridere e a chiacchierare con i pifferai e le cameriere nel salottino della servitù, che in salotto con la gente per bene. Punzecchiava e prendeva in giro Mrs. Berry di continuo, e lei, che non era propriamente una donna con la risposta pronta, ci rimaneva stizzita e furiosa, Insomma, faceva una vita tutta rivolta allo scandalo. E per colmare la misura, quel giovane scapestrato cominciò a frequentare il parroco cattolico. Un farabutto cencioso venuto lì da qualche seminario papista in Francia o in Spagna. Invece del pastore di Castle Lindon, un gentiluomo che aveva studiato al Trinity College, che teneva i suoi bravi cani da caccia e che beveva le sue 2 bottiglie al giorno. A questo punto, preoccupato per la vita spirituale del ragazzo, non esitai a stabilire una linea di condotta nei suoi confronti. Se c'è un principio che mi ha guidato nella vita, è il rispetto per la Chiesa anglicana e un cordiale disprezzo, anzi un vero odio, per tutte le altre confessioni. Perciò inviai il mio domestico personale francese a Dublino con il compito di riportarmi il giovane reprobo. Sembrava che Ballindon, se non riusciva gradito ai notabili del luogo, avesse però un immenso successo con la gente comune. C'era una vera folla a piangere attorno ai cancelli quando la sua carrozza si avviò. Decine di quei miserabili selvaggi illetterati le corsero a fianco per miglia e miglia e altri giunsero al punto di sgattaiolare via prima che lui partisse e ricomparire poi a Beacon House, a Dublino, per l'ultimo addio. Solo con molta difficoltà si riuscì a trattenere alcuni di loro che volevano nascondersi sulla nave e accompagnare il giovane Lord in Inghilterra. Bisogna rendere giustizia a quel giovane furfante. Quando giunse tra noi, era un ragazzo già virile, di aspetto nobile, e i suoi modi e la sua figura rivelavano in tutto il sangue illustre da cui discendeva. Era proprio il ritratto di uno di quei cupi cavalieri della stirpe dei Lindon, raffigurati nei dipinti della galleria di Acton. In mia compagnia osservava sempre un rigorosissimo silenzio, e le sue maniere altezzose, sprezzanti, mi irritavano ancora di più, perché nel suo comportamento non c'era nulla a cui potessi una buona volta appigliarmi per trovarci da ridire, anche se tutto il suo contegno era insolente e borioso oltre ogni limite. Sua madre era molto agitata quando lo incontrò al suo arrivo. E quanto a lui, se anche provava un'agitazione simile, non ne diede segno. Fece un inchino molto profondo e formale nel baciarle la mano, ma quando io gli porsi la mia, raccolse le mani dietro la schiena, mi guardò dritto in faccia e chinò il capo dicendo: «Mr. Barry Lindon, credo». Poi, volto i tacchi, cominciò a discorrere con sua madre del tempo che faceva, chiamandola sempre «Vostra Signoria». Lei si irritò per queste maniere impertinenti e quando furono soli lo rimproverò severamente per non aver stretto la mano a suo padre. «Mio padre, signora?» disse lui. «Certamente vi sbagliate. Mio padre era il molto onorevole Sir Charles Lindon. Se l'hanno dimenticato gli altri, io almeno non l'ho dimenticato». Era una dichiarazione di guerra contro di me e me ne accorsi subito. E sì che posso dire di essere stato più che disposto a fare una buona accoglienza al ragazzo quando arrivò tra di noi e a vivere con lui in buona amicizia. Ma come mi si tratta, così io ricambio. Chi può accusarmi per i miei successivi litigi con quel giovane reprobo o addossarmi la colpa dei mali che sopravvennero? Può darsi che io abbia perso la pazienza. Forse è vero che poi lo trattai con durezza, ma fu lui ad attaccare lite, non io. E le brutte conseguenze che ne derivarono furono tutte opera sua. È meglio estirpare il vizio quando è ancora in germe. E un capofamiglia deve esercitare la sua autorità in modo tale da impedire che la si possa mettere in dubbio. Perciò approfittai della prima occasione per venire alle strette con il signor Ballindon. E quando, il giorno dopo il suo arrivo tra di noi, si rifiutò di eseguire non so quale compito che gli avevano affidato, lo feci portare nel mio studio e gli diedi una bella ripassata con la sferza. Questa operazione, lo confesso, All'inizio mi rendeva molto nervoso, perché non avevo mai frustato un lord prima di allora, ma poi mi abituai in fretta all'esercizio e tra la sua schiena e la mia sferza la conoscenza divenne così approfondita che ti garantisco che dopo qualche tempo non facevamo più tante cerimonie. Se dovessi riferire tutti i casi in cui il giovane Ballindon diede prova di indisciplina e mostrò un comportamento davvero bestiale, non farei che affaticare il lettore. La sua perseveranza nel resistermi era, credo, anche maggiore della mia nel correggerlo. Perché un uomo, per quanto possa essere deciso a fare il suo dovere di genitore, non può certo frustare i figli tutto il santo giorno, né per ogni errore che commettono. E benché io mi sia fatta una fama di patrigno crudelissimo, giuro, sulla mia parola, che gli risparmiai un meritato castigo molto più spesso di quanto io non l'abbia somministrato. E poi, ogni anno, c'erano 8 mesi interi in cui non mi aveva tra i piedi quando io stavo a Londra, al mio seggio in Parlamento o alla corte del mio sovrano. In quel periodo gli permisi, senza la minima obiezione, di studiare il greco e il latino, approfittando della presenza del vecchio pastore. Era stato lui a battezzare Ballindon e aveva una considerevole influenza su quel ragazzo riottoso. Dopo una scenata o una lite tra di noi, di solito era alla casa del pastore che il giovane ribelle fuggiva in cerca di rifugio e consiglio. E devo ammettere che il religioso era un arbitro piuttosto equilibrato dei nostri dissensi. Una volta riportò per mano il ragazzo a Acton. Lo condusse personalmente davanti a me, benché lui avesse giurato di non oltrepassare mai più la porta di casa finché ero vivo. E disse che aveva convinto sua signoria a riconoscere il suo errore e ad accettare qualsiasi punizione io ritenessi opportuno infliggergli. Allora lo fustigai in presenza di 2 o 3 miei amici con cui a quel momento ero seduto a bere. E per fargli giustizia, sopportò una punizione piuttosto dura, senza fare una piega o versare una lacrima. Questo servirà a mostrare che non ero poi troppo severo con il ragazzo. Gli infliggevo il castigo che ritenevo opportuno con l'autorizzazione del pastore in persona. 2 o 3 volte anche la Vender, l'istitutore di Brian, si provò a punire Milord Ballindon. Ma vi assicuro che quel furfante era troppo robusto per lui e mandò al tappeto quel figlio di Oxford con una sedia, per la gran gioia del piccolo Brian che gridava «Bravo, Balli! Picchialo, picchialo!» E Balli non si fece pregare. Il precettore ne prese a sazietà e da allora non provò mai più a castigarlo di persona, accontentandosi di riferire le malefatte di sua signoria a me, suo naturale protettore e guardiano. Strano a dirsi, con il bambino Ballindon era molto docile. Prese in simpatia quell'ometto, come accadeva del resto a chiunque vedesse il caro piccino, e diceva che gli piaceva ancora di più perché era per metà un Lindon. E aveva ben ragione ad apprezzarlo, perché molte volte, quando quell'angioletto intercedeva dicendo «Papà, non frustare Balli oggi», io ho trattenuto la mano, risparmiandogli una ripassata che abbondantemente meritava. Con sua madre, all'inizio, si degnava appena di scambiare qualche parola. Diceva che lei non apparteneva più alla famiglia. Perché avrebbe dovuto amarla, se non era mai stata una madre per lui? Ma per dare al lettore un'idea dell'accanita, cupa ostinazione di quel ragazzo, voglio accennare a un aspetto in particolare del suo carattere. Mi è sempre stato imputato di non averlo mai mandato in collegio o a scuola, negandogli l'istruzione che si conviene a un gentiluomo, ma la verità è che fu lui, di sua propria volontà, a non andare né all'uno né all'altra. Io glielo proposi più volte, con l'intenzione di risparmiarmi il più possibile lo spettacolo delle sue impertinenze, ma ogni volta lui rifiutò, e per lungo tempo. Non riuscii a capire quale incantesimo lo trattenesse in una casa dove non doveva certo trovarsi troppo bene. Alla fine, però, la verità venne fuori. C'erano scontri frequentissimi tra Lady Lyndon e me, e certe volte aveva torto lei, altre io. Ma dato che nessuno dei due aveva un carattere propriamente angelico, la discussione degenerava in lite. Spesso io avevo bevuto, e chi è tanto gentiluomo da riuscire a controllarsi in quello stato? E forse è vero che allora io trattassi Milady in modo un po' manesco, le scagliassi addosso un bicchiere o due, la chiamassi con qualche nome non troppo garbato. Può anche darsi che io l'abbia minacciata di morte, minacce che ovviamente avevo interesse a non mettere in atto, e per farla breve, che io l'abbia seriamente spaventata. Dopo una di queste liti, lei corse via gridando per i corridoi, mentre io, sbronzo come un lord, la inseguivo barcollando. A quanto pare Ballindon uscì dalla sua stanza attratto dal rumore, e quando stavo per raggiungerla, quel coraggioso furfante mi fece lo sgambetto. Non ero troppo saldo sulle gambe, e presa al volo tra le braccia la madre svenuta, la portò in camera sua. E qui giurò, in risposta alle suppliche di Milady, che non avrebbe mai lasciato la casa finché fosse durata la nostra unione. A mano che Ballindon cresceva e si faceva uomo, il suo odio per me raggiungeva un'intensità inimmaginabile, spaventosa. E vi assicuro che io lo ricambiavo con gli interessi. Fu all'età di 16 anni, credo, che quell'impudente carognetta, un'estate che al mio ritorno dal Parlamento mi preparavo a fustigarlo come al solito, mi fece capire che non si sarebbe mai più sottoposto ai miei castighi. Digrignando i denti, disse che se gli mettevo ancora le mani addosso, mi avrebbe sparato. Lo guardai bene. Era proprio cresciuto. Ormai era un giovanotto ben piantato. E così rinunciai a quella parte necessaria della sua educazione. Più o meno in quel periodo arruolai la compagnia che doveva andare a combattere in America. E i nemici che avevo nel circondario, inutile dire che dopo la mia vittoria sui Tiptoff ce n'erano parecchi, cominciarono a diffondere le notizie più infami sul trattamento che riservavo a quel fior di canaglia del mio figliastro, insinuando che volevo addirittura sbarazzarmi di lui. Perciò quel mio atto di lealtà verso il sovrano venne interpretato, per assurdo che sembri, come un mio orribile snaturato piano per attentare alla vita di Ballindon. Si disse che avevo arruolato il corpo di spedizione da mandare in America soltanto per affidarne il comando al giovane visconte e in questo modo toglierlo di mezzo. Non escluderei che avessero stabilito anche il nome del commilitone che aveva l'ordine di farlo fuori alla prima battaglia campale e la somma esatta con cui l'avrei ricompensato per questo delicato servizio. Ma la verità è che io ritenevo allora, e benché l'adempimento della mia profezia sia stato ritardato, e non ho alcun dubbio che essa si compirà ben presto, che Milord Ballindon non avesse affatto bisogno che io gli dessi una mano mandandolo all'altro mondo, perché aveva un vero dono per trovare da sé la via per andarci, e l'avrebbe certamente percorsa fino in fondo. A dir la verità, l'aveva imboccata presto, di tutti gli scapestrati violenti, sfacciati e ribelli che mai fecero soffrire un affettuoso genitore, lui era certo il più incorreggibile. Picchiarlo, vezzeggiarlo, costringerlo ad obbedire. Era tutto inutile. Per esempio, anche con il mio figliolo, quando il suo istitutore lo portava in sala mentre bevevamo una bottiglia dopo pranzo, Milord attaccava con i suoi sarcasmi taglienti e presuntuosi, rivolti in realtà contro di me. «Caro piccino», diceva, cominciando ad accarezzarlo e coccolarlo, «che peccato per te che io non sia morto, eh? I Lyndon avrebbero in te un ben più degno rappresentante e trarrebbero gran profitto dall'illustre sangue dei Berry di Berryog. Non è così, Mr. Barry Lyndon? per farmi queste tirate insolenti, sceglieva sempre i giorni in cui c'era qualche nostro conoscente, oppure i preti o i notabili del luogo. Un altro giorno era il compleanno di Brian. Avevamo dato un grande ballo di gala a Acton e per il mio piccolo Brian era giunto il momento di presentarsi tra di noi, indossando, come in quasi tutte queste occasioni, il più delizioso abitino di corte che si sia mai visto. Povero me, i miei vecchi occhi si riempiono ancora di lacrime a ripensare all'espressione radiosa di quell'amato visino. Tutti si affollarono ridacchiando quando il piccolo arrivò accompagnato da suo fratellastro. Questi era entrato nel salone da ballo, e ci credereste, camminando con le sole calze ai piedi e tenendo per mano il piccolo Brian che sguazzava nelle grandi scarpe del maggiore. «Non credete che le mie scarpe gli stiano molto bene, Sir Richard Wargrave?» disse quel giovane reprobo, al che tutti gli invitati cominciarono a scambiarsi sguardi e risolini, e sua madre avanzò con grande dignità verso Lord Balingdon. Si prese in braccio il bambino e disse: «Da come amo questo figlio, milord, dovreste aver capito quanto avrei amato suo fratello maggiore se si fosse dimostrato degno dell'affetto di una madre». E Lady Lyndon scoppiò in lacrime e uscì dal salone, lasciando per una volta interdetto il giovane lord. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.